provi a contare i miei mille disturbi psicotropi e bipolarità. So che colpirai nel segno e per un po' fingerò perfino di darti ragioni. Quando riesci a convincermi che 8 ore di sonno è l'ideale per noi, che passiamo la vita a nutrirci dei sogni seminati e mai raccolti, prova a rimandare con l'alcol a non so quale altro giorno dell'anno i problemi. E poi pecco di lucidità. Mi saluta la gente, ferisce ridendo, vacilla la mia solidità. Ho esaurito il repertorio da anni ormai, e il tuo silenzio è mia solitudine.